La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Questa è La rosa purpurea, l'ora settimanale di cinema di Radio 24. Io sono Franco D'Assisi e questo è il menù di giornata. La questione degli abusi sulle donne poco prima del Me Too. Su Amazon Prime Video arriva Bombshell di Jay Roach con un tris di star: Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Gli uomini, questi imbranati, 7 ore per farti innamorare, è una commedia sul rimorchio e sull'amore. Ne parliamo con il regista e protagonista Giampaolo Morelli. Da Netflix un originale animato, i Willoughby, storia di una famiglia disfunzionale con genitori egoisti e figli che sognano di essere orfani. Babylon Berlin arriva alla 3ª stagione, storia della strepitosa serie diretta da Tom Tykwer, regista di Lola Corre e Cloud Atlas, sulla Berlino crepuscolare della Repubblica di Weimar. Su Rai Play 25 film del grande Totò, con alcune chicche e rarità. Ne parliamo col massimo esperto italiano del principe della risata, Alberto Anile. Resistenza cinefila ci porta oggi in casa di Raul Bova, che approfitta del tempo a disposizione per scrivere la sua nuova serie dedicata alla Croce Rossa nell'Italia del Covid. Partiamo subito col pezzo forte della settimana, Bombshell di Jay Roach, con 3 generazioni di bionde a confronto, Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie, e uno straordinario cattivo come John Lithgow. È solo il primo di 3 film di questa settimana destinati alla sala che hanno scelto il direct to streaming su piattaforme o a pagamento. Bombshell, uno dei titoli più attesi della primavera, è su Amazon Prime Video. America oggi, o quasi. 2016, durante un dibattito con Donald Trump, la conduttrice Megyn Kelly, Charlize Theron, accusa il futuro presidente di avere apostrofato le donne con i seguenti paragoni: grosse scrofe, cani e animali disgustosi. Il problema è che la platea è quella ultraconservatrice di Fox News, presieduta dal potentissimo Roger Ailes, John Lithgow. Sulla giornalista pioggia di insulti sessisti da Trump e da molti ascoltatori, e distanza emotiva, non sociale, da parte di molte colleghe, sì, con la E finale. Poco dopo, la presentatrice Gretchen Carlsen, Nicole Kidman, viene spostata da Ailes dal prime time al pomeriggio perché non è più giovane, e in seguito licenziata per essersi detta in onda favorevole alle restrizioni sulla vendita delle armi ai privati. Gretchen incontra i suoi avvocati e decide di perseguire Ailes per le tante molestie sessuali alle quali non ha mai ceduto e quelle a colleghe di cui è venuta a conoscenza negli anni. La televisione è l'industria più competitiva di questo pianeta. Perché un network vada in onda 24 ore al giorno, serve qualcosa che attiri il pubblico. Ti serve una gonna più corta. Ciao, perché se il tavolo è trasparente? A telecamere spente era ancora peggio. Detesti gli uomini, devi andare d'accordo con i maschi. Sei sexy, ma sei troppo faticosa. Ho qui tutta una lista. Ci saranno altre donne a farsi avanti? Il quale Ailes, ogni volta che una giovane giornalista si affaccia all'universo Fox, la chiama nel suo studio con la porta ben chiusa e le chiede lealtà. Così è anche per la giovane Kayla Pospisil. Margot Robbie sarà la goccia che apre la crepa decisiva nel fortino della Fox e dell'uomo che l'ha gestita per anni a suon di gonne corte e primi piani delle gambe. Un anno dopo toccherà a Weinstein e al Me Too. È un film importante, Bombshell, perché chi l'ha diretto e chi l'ha interpretato ha scelto di esporsi in prima persona, mettendoci la faccia contro uno dei media più forti dell'America trampiana. Ed è anche un film interessante, sostenuto da un ottimo ritmo e da prove attoriali di livello. Sentiamo cosa ne pensa Boris Sollazzo. Ciao Boris! Film davvero interessante questo Bombshell, perché mette sul piatto l'altra faccia di Roger Ailes. Lo conosciamo bene perché in The Loudest Voice, una delle più belle miniserie TV degli ultimi anni, Russell Crowe gli ha dato il suo carisma mefistofelico e ne ha raccontato l'istinto ferino, feroce da uomo di televisione, uomo politico, uomo di palinsesti. E qui ne esce invece l'uomo squallido, l'uomo che è stato cacciato dal suo amico, dal suo sodale, Rupert Murdoch, nel momento in cui si è scoperto il modo in cui trattava le sue impiegate. La regia è diventata estremamente meno audace e meno sperimentale ed è diventata invece quella di un film civile, e si va a parlare di Me Too. perché si parla della prima volta in cui un uomo di potere è stato letteralmente destituito da delle donne che quel potere sì lo avevano, ma solo in televisione. Donne che almeno apparentemente non hanno poi subito conseguenze del loro gesto, ed è stata forse la prima volta nel mondo della televisione. Bombshell è un film interessante, un film che tiene il ritmo, che come molti film negli ultimi anni, facente parte di quella che potremmo chiamare denuncia civile, ha deciso di tornare ai ritmi e al rigore degli anni 70, quindi grande aderenza alla realtà, quindi utilizzo di grandi divi per dare ancora più carisma al racconto, una grande interpretazione, in questo caso quella di Charlize Theron, all'inizio quasi irriconoscibile, poi man mano più aderente all'immagine che abbiamo di lei, il lavoro che fa lei fa sulla voce è straordinario, insomma Charlize Theron è una grande attrice, forse ce lo siamo dimenticati sempre per la sua bellezza ed è un po' quello che succede anche al suo personaggio, immaginiamo che ci sia anche dell'autobiografia nel modo in cui probabilmente anche lei ha rifiutato, anzi lo ha detto più di una volta, avanza piuttosto spinte. E il film, certo, non è un capolavoro, non è tutti gli uomini del presidente, però è un altro tassello sul racconto di un cinema che non è più maschile e maschilista, ma che cerca di raccontare anche il dietro le quinte di quello che è stato. Ci sono alcune finezze, una delle quali è in una delle ultime scene, John Lithgow che dice a Malcolm McDowell, che fa Robert Murdoch, Me Too, come a sottolineare, insomma, quello che sarebbe successo, perché appunto, un anno dopo ci sarebbe stato poi anche l'esplosione del caso Weinstein. Il film funziona, va benissimo, forse verso la fine perde un po' di ritmo, si appassiona troppo alla sua tesi, ma ha una grande efficacia e anche molto duro verso questo personaggio che in qualche modo era stato glorificato invece dalla serie TV. Bombshell quindi su Amazon Prime Video, linea adesso alla regia, fra poco sarà con noi Giampaolo Morelli che esordisce dietro la macchina da presa con la commedia 7 ore per farti innamorare, di cui è protagonista al fianco di Serena Rossi. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. La rosa purpurea. Le regole per rimorchiare ormai sono una scienza. Seguite il mio metodo e imparerete a conquistare qualsiasi ragazza in 7 ore. Giulio, non saltare alle conclusioni. Oh my God. Io non lo so se queste cose che racconti sono vere oppure no. Però puoi dirmi la verità. Ui, che appena stupolo, frate. Il mondo è pieno di ragazze carine e disponibili. Ciao, sono Ernesto, ti posso conoscere? Vai a cagare. Vedi? E allora sì, abbracciami anche un po', che voghi sanno fuori. Che mistero l'amore che viene e che va. Ci vorrebbe un maestro per insegnare l'arte della seduzione, ma poi il sentimento sceglie le strade che vuole, intreccia i fili a modo suo e ogni certezza scientifica va gambe all'aria. È quel che accade ai protagonisti di 7 ore per farti innamorare, disponibile sulle piattaforme Sky Prima Fila, Chili, Team Vision, Google Play e iTunes e tante altre. È l'esordio alla regia di Giampaolo Morelli che ivi recita al fianco di Serena Rossi. Napoli. Giulio è un giornalista finanziario con una solida carriera, una bella casa vista Posillipo e un matrimonio in vista. Ma un giorno rientra a casa e scopre che la sua relazione con Giorgia così perfetta non è, e ad approfittarne è niente meno che il suo capo. Giorgio perde in un colpo solo la donna e il lavoro e per provare a rifarsi si iscrive al corso di rimorchio rapido tenuto dalla bellissima tutor Valeria Serena Rossi, la quale promette di insegnare come conquistare una donna in sole 7 ore. Ma Giorgio è diffidente, pensa che l'amore non sia una scienza esatta, come sostiene Valeria, anzi, proprio lui e la bella guru dell'amore saranno la dimostrazione del contrario. Sì, Sette ore per farti innamorare è commedia discontinua, a tratti schiacciata sul cliché della situation comedy sfiorando quasi il cinepanettone, ma nel cuore si rivela azzeccata commedia romantica, che poi è la parte migliore del film. Piacciono meno le battute grosse su dimensioni sessuali o approcci maldestri, ma quando al fianco di Morelli, sempre perfetto nei panni del bravo ragazzo, scendono in campo il suo secondo capo, un Vincenzo Salemme guascone ma mai sopra le righe, e soprattutto una Serena Rossi degna di una commedia americana, il film trova una sua dimensione. E con noi c'è Giampaolo Morelli, ben trovato alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, ciao a tutti, eccoci qua. Giampaolo, il tuo esordio alla regia con una storia sulla seduzione a radici antiche. Come rimorchiare una ragazza sembra un tema a te molto caro, visto che ci hai scritto un libro e uno spettacolo teatrale. Trovi sia una tematica centrale nella nostra vita sociale? Io prima di scrivere il romanzo, in realtà è successo tutto così, che stavo navigando in rete quando sono incappato in una pubblicità dove c'era un tizio che sosteneva che poteva insegnarti a rimorchiare qualsiasi donna con delle tecniche infallibili, dietro pagamento naturalmente. Allora mi sono incuriosito, ho fatto una ricerca e ho scoperto che esiste una vera e propria comunità online, un po' underground, internazionale, proprio mondiale, di seduttori, di persone che si scambiano opinioni, tecniche, strategie di rimorchio. Allora io li ho contattato questo tizio più altri due o tre guru della seduzione italiana, mi sono presentato e gli ho chiesto se potessero dimostrarmi che queste tecniche, queste strategie di seduzione funzionassero veramente. Quindi loro hanno accettato di farsi microfonare, quindi io ho messo un microfono nascosto e li spiavo da lontano con una telecamera e con delle cuffiette, e loro se ne andavano in giro a rimorchiare nei supermercati, nelle librerie, nei bar, e devo dire che queste strategie funzionavano e se ne tornavano soprattutto col numero di telefono di queste ragazze, nella maggior parte dei casi. Ma quello che mi ha incuriosito di più però erano gli alunni di questi personaggi. Avevano delle classi anche un po' belle piene, insomma, come si vede nel film, e c'erano da una parte, vabbè, i rimorchiatori seriali, quindi ragazzi che volevano semplicemente accumulare rimorchi su rimorchi, e d'altra parte invece c'erano poi dei tizi, delle persone, degli uomini anche di una certa età o dei ragazzi molto carini, intelligenti, colti, anche laureati, con magari una buona posizione, un buon lavoro, ma letteralmente paralizzati dall'idea di dover approcciare una donna in un locale, che è una cosa che poi fa paura a tutti noi anche, logicamente, ma questi erano veramente terrorizzati dall'idea dell'approccio. Quindi grazie a queste tecniche loro riuscivano un po' a sentirsi più sicuri e quindi a darsi l'opportunità di farsi conoscere. Hai sentito parlare di un certo dottor Rimorchio? È un mito. Sono serio, giuro su Dio. Dicono che lei è un tizio che aiuta la gente come me a rimorchiare le donne. Nessuno è perfetto, ma c'è un uomo. Mi chiamo Alex Hitchens, ma chiama Mitch. Che vi fa andare molto vicini alla perfezione. Aspetti, le do il mio numero, ha una penna. Abbiamo sentito anche una clip di Hitch, lui sì che capisce le donne. C'è anche un'influenza del film con Will Smith sul tuo? Sì, diciamo che quello con Will Smith, che è un Hitch, che è un film che io adoro, adoro veramente, però si basa tutte su strategie, insomma, su tecniche inventate, no? Molto rocambolesche, impossibili da mettere in pratica. Invece in questo caso sono le tecniche, quindi sono tutte vere e funzionano. E poi naturalmente mi è venuta l'idea, ma anche qui prendendo poi spunto dalla realtà, perché a Londra c'è una ragazza anche molto bella che insegna agli uomini a rimorchiare, ma forse ci sarei arrivato anch'io a questa idea qua, perché chi più di una ragazza può insegnare agli uomini a rimorchiare le donne? Quindi per questo poi mi è venuto di mettere come insegnante questa bella ragazza Valeria, interpretata benissimo tra l'altro da Serena Rossi. E Giorgia ha risposto, sta in chat. A casa da sola, già in pigiama nel lettone. No! Che cosa? Non lo fare, non rispondere. Perché? È un test dello zerbino. Un che? Un test dello zerbino. Serve a capire se c'è ancora controllo su di te. Per favore, la smettiamo con queste idiozie parascientifiche, dai. Parascientifiche? Sì, allora. Tra un'ora sono da te. Montiamo le mensole. Test dello zerbino. Ma pure le parole, come te le inventi? Allora, sono troppo stanca stasera. Domani sveglia presto, facciamo un altro giorno. Era un test dello zerbino. La sensazione è che il tuo film abbia due registi di regia ben distinti, un impianto più apertamente comico e battutistico e virate in delicata commedia romantica quando in scena con te arriva una bravissima Serena Rossi. Era voluto? La sfida era proprio quella di riuscire a fare una commedia romantica. Poi il pubblico mi dirà se ci sono riuscito o meno. E poi avere avuto, insomma, Serena accanto, Serena Rossi, che io conosco da tanto tempo, per me è stata una garanzia, mi ha dato molta sicurezza, perché comunque puoi immaginare un'opera prima è piena di tensioni, di difficoltà, e quindi sapere di avere accanto un'attrice così preparata, così brava, mi ha dato veramente grande sicurezza. Grazie Giampaolo e a presto. Ma sono io che ringrazio te, ringrazio tutti voi. Un abbraccio a tutti. Ciao. E giochiamo insieme adesso, giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende, secondo un'antica profezia, l'avvento di un uomo, un messia. Affondiamo le radici a oltre 30 anni fa, un film di fantascienza che è diventato un classico. Se l'avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro nome e cognome e indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Ora una proposta family, una novità d'animazione targata Netflix, si intitola La famiglia Willoughby. Il desiderio dei piccoli Willoughby era avere una famiglia normale. Ma ai loro amorevoli genitori non restava amore da dargli. Ecco perché i piccoli Willoughby. Gli organizzeremo un'avventura pericolosa. Manderanno i propri genitori a fare un viaggio da restarci secchi. Spaventoso! Spietato! Cosa c'è scritto? Gira il mondo. E sai cos'altro? Bambini non ammessi! Non è facile far parte della famiglia Willoughby, patriarcale, di lontane e pregiate discendenze, uomini di scienze e di lettere, generali e aviatori, tutti con enormi baffoni spessi come fili di lana. Tranne l'ultimo arrivato, Tim, a cui non è spuntato ancora nemmeno un pelo. Lui, la sorella Jane e i gemelli Barnaby, sì, hanno entrambi lo stesso nome, detti i Barnabini, sono vessati da due genitori concentrati solo sul loro amore, ma privi di qualsiasi trasporto emotivo nei loro confronti. Jane, ad esempio, vorrebbe cantare, ma ogni volta viene zittita dai suoi. Tim vorrebbe mangiare, ma l'esigenza viene derubricata a puerile bambineria e punita di conseguenza. Un giorno, davanti alla casa d'altri tempi, di questa famiglia d'altri tempi, qualcuno lascia un'orfanella. Sarà la scintilla per il riscatto dei fratelli Willoughby, imbarcare i genitori in un viaggio auspicabilmente mortale per diventare orfani e riacquistare la libertà, grazie all'aiuto di una tata e di una specie di Willy Wonka, proprietario di una fabbrica di coloratissime caramelle. Sono la vostra tata! Cucino, pulisco, canto! Cosa? Tu canti? Sì! Il mio dovere è prendermi cura di voi bambini. Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, la sensazione è di un film coraggioso ma incompiuto. Famiglia disfunzionale, genitori detestabili, figli che ne desiderano la morte per rimanere orfani. Il comparto animato, semplice ma efficace, riesce a costruire un mondo. Eppure il film rimane sempre un po' freddo e distante. Sarà una carenza della coppia di regia formata da Chris Pearn e Rob Lodermeier? Credo proprio che sia un problema di regia, un problema di scelte di regia e di scelte di messa in scena. Sembra che tutto il coraggio e tutta la sperimentazione abbiano provato a metterla nella scrittura, costruendo questi personaggi particolari, questi figli lasciati al loro destino, questi genitori che non hanno spazio per l'amore filiale perché si amano troppo tra di loro. E però anche lì, se vogliamo, anche in scrittura questo politicamente scorretto è molto freddo. Probabilmente i motivi sono due. Uno, che il film è fin troppo atteso. Anche a livello, tra virgolette, lombrosiano, la simpatia dei personaggi, la simpatia estetica dei personaggi, dall'uomo delle caramelle alla tata è fin troppo evidente rispetto a quanto siano respingenti i Willoughby. Poi c'è anche una gestione dell'aspetto cromatico fondamentale in un film d'animazione che è quasi infantile, è molto didascalico. Questo appunto rosso che domina in quella vecchia casa e l'eccesso di colori che invece c'è altrove. Sembra tutto in qualche modo derivativo o troppo facilmente desumibile dalle scelte di messa in scena. Alla fine ci si annoia, inevitabilmente, con una sceneggiatura che prevede delle battute, prevede dei colpi di scena, penso al finale. Sembra avere tutto al posto giusto per piacere sia la critica che il pubblico, eppure però fondamentalmente le scelte di regia e di messa in scena portano a un effetto di noia e di piattezza estetica ed emotiva che non ti accende mai. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema! I Willoughby su Netflix, adesso lì nella regia, fra poco si apre il sipario sul Principe della Risata, 25 film di Totò su Rai Play, fra pochi. La rosa purpurea. La comicità era diventata troppo intellettualizzata, troppo occasionale, difficile. Il pubblico andava al cinema per ridere e guarda caso non rideva, quindi ne usciva deluso. La comicità non può essere limitata a questo o a quel periodo. La comicità è quella di sempre, antica e moderna nello stesso tempo. Prendiamo ad esempio il maestro di tutti noi, il grande Charlot. Charlot si era creato una maschera, un tipo, un personaggio, e in qualunque soggetto era sempre lui, sempre lui stesso. La realtà andava incontro a Charlot e non Charlot si adattava alla realtà. E senza cantarla mai, non è che la dobbiamo cantare. La cantare io, no, io E di questi pianoforte. Femmine, tu sei una mala femmine. Chi sto e chi è fatta chiagne, lacrime infamità. La comicità, secondo Antonio De Curtis di Bisanzio, al secolo Totò, sulle note dell'immortale Malafemmina. Così parlava il principe della risata nel 66, un anno prima di lasciare a questo mondo un patrimonio immenso di battute memorabili, al tempo stesso leggere e profonde, canzoni e poesie immortali. E naturalmente di film, tanti film, 97 per la precisione. Un quarto di questo tesoro è visibile ora gratuitamente su Rai Play, che dedica una striscia in home page al principe della risata. Noi ne parliamo con Alberto Anile, critico e storico del cinema, ma soprattutto profondo conoscitore del fenomeno Totò, al quale ha dedicato numerosi libri, l'ultimo dei quali nel 2017, Totalmente Totò, vita e opere di un comico assoluto, edito dalla Cineteca di Bologna. Allora Alberto, 25 film su Rai Play che coprono praticamente tutto l'arco produttivo cinematografico di Totò. Dovessi consigliarne qualcuno, da dove cominceresti? Credo che i più interessanti siano soprattutto due film che parlano di Totò e in relazione con il teatro. Quindi sceglierei I pompieri di Bijou, dove si vedono anche delle autentiche rappresentazioni teatrali filmate da Mario Mattoli e riprese da vere riviste di Totò dell'epoca, parliamo del 1948. E un altro che consiglierei è il poco conosciuto Yvon La Nuit, che solo di un anno dopo Pompieri di Bijou, del 49, è un Totò semidrammatico, ma contiene soprattutto la bellissima esibizione teatrale del bel Cicillo. Una macchietta che nei primi del Novecento, negli anni Venti, si faceva e rifaceva continuamente e che probabilmente è l'unico esempio che possiamo ritrovare e riscontrare di un Totò in qualche modo futurista, avanguardista, nella dislocazione continua degli arti, della testa, del mento e contemporaneamente nell'esercitazione di scioglilingua irresistibili. Io di nome mi chiamo Don Ciccio e mi firmo Don Ciccio Salciccio. Io comunque mi bacio e mi impiccio, dove vado mi faccio un pasticcio. E così per un puro capriccio Don Ciccio Salciccio mi sento chiamare. Ciccio, Ciccio, Ciccio. E l'abbiamo sentito il bel Cicillo. Alberto, per gli amanti della magica coppia Totò Peppino, c'è qualcosa? Un film che consiglierei è La Cambiale, che presenta un finale al tribunale che è qualcosa di veramente spassoso e irresistibile, con lui e Peppino che fanno i finti testimoni per intascare qualcosa, è veramente uno dei vertici assoluti della sua arte. Signor generale. Non sono generale! Lo faranno. Ma Io sono giudice e basta. Giudice e basta. Io vengo dall'Africa, cioè dalla Turchia, per essere preciso, col mio piroscafo personale. Che avete un piroscafo personale? Sì, sì, io. Sì. Sono scesi con questo mio piroscafo personale, perché venivo anch'io dai Paesi Bassi, ma andai via dai Paesi Bassi, perché essendo bassi mi toccava camminare curvo, dico vado via, vado in Turchia. In questa selezione di 25 film, Alberto, c'è qualche chicca particolarmente rara? L'ultimo film presentato in questa striscia di proposte di Rai Play, Il padre di famiglia, viene denominato come l'ultimo film di Totò, ed effettivamente, anche se Totò non fa parte ufficialmente del cast che annovera Nino Manfredi e Ugo Tognazzi, è il film che Totò stava girando appena 2 giorni prima di morire, e la cui parte venne tagliata e il ruolo venne preso da Ugo Tognazzi. Sarebbe dovuto essere una partecipazione che fu espunta, ma non del tutto, perché se state molto attenti c'è una scena di un funerale in cui in mezzo alla folla potrete, fermando col mouse l'immagine, ritrovare come un fantasma in campo lungo Totò che indossa un impermeabile arancione. A morto, sai, Gre, è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Tra senno sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stamma a sentì. Non fuori Steve, supportami vicino che t'importa. Sti pagliacciati fanno sole vive, noi siamo serie, appartenimmo a morte. La filosofia di Totò nel finale di A Livella, la sua poesia più celebre, dove affronta il tema delle diseguaglianze anche quando la vita è finita. Una poesia che è stata spesso citata in questa crisi sanitaria mondiale che ha colpito a tutti i livelli, ricchi e famosi oltre ai soliti ignoti. Come avrebbe affrontato il principe De Curtis questi giorni difficili? Antonio De Curtis, se vivesse oggi in tempi di coronavirus, sarebbe spaventatissimo, più di quanto lo siamo attualmente. Nella vita privata era abbastanza timoroso, soprattutto ipocondriaco. Tra l'altro è curioso che anche uno come Alberto Sordi fosse nella vita non una persona così coraggiosa, ed è singolare che due grandi figure di attori comici come loro, eccezionalmente coraggiosi, avanguardisti, anarchici e rivoluzionari nella loro arte, però nella vita personale lo fossero un po' meno. Si vede che mettevano tutta la parte migliore del loro estro, della loro anima, in un lavoro per il quale effettivamente al quale hanno effettivamente consacrato una vita intera. Femmina, tu sia più bella femmina, te voglio bene, non te posso scordare. Alberto Anile ci ha guidato nell'offerta su Totò di Rai Play. Ora giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. È stato detto, un uomo un giorno verrà, il cui salsa verrà. Egli andrà dove noi non possiamo. Qui è dove loro non possono guardare. E l'abbiamo detto, più di 30 anni, un film di fantascienza del quale, piccolo aiutino ulteriore, si sta preparando, anzi è praticamente pronto, il remake. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e il vostro indirizzo, fra poco vi diamo la soluzione. Utze an der Zeit. Ewiges Gesetz, zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch nicht jetzt. Capita a volte, non spesso, di essere rapiti da una canzone dentro a un film, una melodia che si sposa perfettamente con le immagini e che rimane appesa a qualche angolo della mente. Ebbene, a me è successo con questo brano, zu Asche, zu Staub, alla cenere, alla polvere. Da quando l'ho sentito e visto, data la sontuosa scena a cui faceva da contrappunto musicale, nella seconda puntata della prima stagione di Babylon Berlin, non me lo sono più levato dalla testa. Nel salone delle feste del Mocha Efti, molto più che un bar, il cuore pulsante della Berlino di Weimar, centinaia di persone si agitano e ballano in un'immensa coreografia di massa, con la cantante Svetlana che dal palco, en travesti, innalza questo inno crepuscolare agli dèi di una Germania promiscua, sostenuta dal ritmo incalzante di una batteria ipnotica. wonder what can be too left. Perché vi parlo di una canzone? Perché raramente un brano, una situazione, un clima hanno descritto così precisamente un mondo e un'epoca e colto così pienamente il senso di un'opera cinematografica. Ora di quella serie, Babylon Berlin, arriva la terza stagione su Now TV. Noi ne parliamo con Nicola Cupperi di Fil TV. Ciao Nicola. Ciao Franco, un saluto a te e agli ascoltatori. Nicola, inquadriamo la serie. La Berlino di fine anni 20, lo spionaggio, i movimenti trotzkisti, il nazismo strisciante che fra poco busserà alla porta. Ma anche la libertà culturale, sessuale, perché il caos non è altro che l'altra faccia del fermento. In questa Berlino che sembra Babilonia, come suggerisce il titolo, si muovono Gereon Rath, l'investigatore in cerca della verità su un caso di ricatto e pornografia, e Charlotte Ritter, la ragazza della porta accanto, dalle molte vite. Sì, la vera protagonista di questa serie neo-noir è la Berlino del 1929. Siamo all'apice della ricostruzione post-prima guerra mondiale e la capitale della Repubblica di Weimar è una città vitale e brulicante, ma anche piena di povertà, contraddizioni e tensioni. All'entrata di questo labirinto troviamo Gereon Rath, poliziotto di Colonia, reduce di guerra e dipendente dalla morfina, trasferito per indagare su un filmato pedopornografico usato per ricattare il sindaco della sua città. Con lui collabora Charlotte, che sogna di diventare poliziotta, ma nel frattempo campa facendo lavori da archivista e prostituendosi. Sullo sfondo, l'altra protagonista della serie, la storia. Le indagini di Rath grattano la superficie e svelano una cospirazione fra trotzkisti in fuga da Stalin e nostalgici del Kaiser che vogliono restaurare la monarchia e riarmare la Germania. Chi dei due ha sbagliato bagno? Lei sa quanti sono i bagni per gli uomini in questo edificio? 52. E quanti per le donne? Deve farmi un favore. Non mi dica altro, tanto ho già capito. Ah, sì? Mi chiamo Charlotte Ritter. Rath, Gereon. Gereon? Da dove viene? Dal Medioevo? Da Colonia. Babylon Berlin è la più ricca produzione tedesca di sempre, 38 milioni di euro solo per le prime due stagioni. Girata negli studi di Babelsberg, mette insieme l'epica di Heimat con un clima sospeso fra Brecht e Cabaret. Alla regia, ma anche alla produzione e alla sceneggiatura, c'è il Tom Tykwer di Lola Corre e Cloud Atlas. È da poco disponibile la terza stagione, dicevamo, Nicola. Di solito nelle stagioni successive le serie si annacquano un po', ma questo non sta succedendo a Babylon Berlin. Come è riuscito Tykwer in questa impresa? Tykwer si è preso molti rischi con questa terza stagione. Senza svelare troppo della trama, possiamo dire che alla fine della seconda Babylon Berlin ha concluso il suo primo arco narrativo. Quindi ora non ci sono più ricatti da sventare né treni da inseguire. La serie si evolve, passa dalla duplicità delle spie russe a quella degli attori sul set di un film insanguinato da una serie di omicidi perpetrati da un misterioso fantasma del cinematografo. Il tutto mentre ci troviamo a 5 settimane dallo scoppio della Grande Depressione, la crisi economica globale che metterà definitivamente alle corde lo spirito della Repubblica di Weimar, svelando tutti i nervi scoperti di una società che stava ancora faticosamente guarendo dalle ferite della Grande Guerra. Sulla superficie si agitano le indagini su un piccolo, si fa per dire, crimine, indagini che hanno tutti i crismi della narrazione noir procedurale, mentre sullo sfondo continua a montare la subdola ascesa del movimento nazista. Grazie Nicola Cupperi, a risentirci. Grazie Franco, un saluto e un abbraccio di gomito a te e a tutti gli ascoltatori. Ora linea alla regia per l'ultima volta. Fra poco andiamo a casa di Raul Bova per farci raccontare la sua quarantena cinefila e il suo nuovo progetto legato all'Italia del Covid-19. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'Ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineadombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linea d'Ombra di Matteo Caccia. Dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. La Rosa Purpurea. E chiudiamo da dove abbiamo iniziato. Ancora un film previsto per la sala che approda direttamente su Amazon Prime Video. Stiamo parlando di Cosa mi lasci di te, che cerca di ripercorrere i fasti del filone che negli ultimi anni ha visto i successi di film come Colpa delle stelle o Resta con me. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Mi chiamo Jeremy Kemp. Voglio presentarvi una persona speciale stasera. Lei è la mia fidanzata, Melissa. Forza, alzati piccola. Coraggio, alzati. Già, sono impegnato, mi dispiace. A inizio anno abbiamo ricevuto delle brutte notizie. Delle notizie orribili. Stasera possiamo fare qualcosa di speciale per una persona speciale. Esprimiamo un desiderio. Grazie. Il protagonista di questa storia, quello che chiede un pensiero per la fidanzata, non è un personaggio di finzione. Questo film racconta la storia vera del cantautore Jeremy Kemp, star della musica cristiana contemporanea. L'amore con Melissa è un colpo di fulmine, un istante che cambia la vita. Solo ventenni, lui è appena arrivato in un college cristiano in California, non potranno stare insieme da subito, ma lui sa che lei è l'amore della vita. Spera e non la lascia, nemmeno davanti alla malattia, anzi, la sposa. Ti vuoi sposare? Sì. Ma lei guarirà? Non lo so, mamma. Figliolo, hai soltanto 20 anni. Conosci questa ragazza da poco. Sono destinato a stare con lei, non so dire perché, lo so e basta. Voglio che tu sappia che in qualunque caso, in qualunque circostanza, io sarò con te. Ogni passo, ogni momento sarò con te. Ci sono e sono pronto a tutto. Da questo amore, dai momenti felici collezionati nel poco tempo concesso, nasce I Still Believe, una canzone sulla speranza e una biografia. La speranza è il sentimento che vuole essere prevalente in questo film diretto da Andrew e John Irwin. Continuo a pensare che se la vita di una sola persona cambierà grazie a quello che sto attraversando, ne sarà valsa la pena. Jeremy Kemp è J.K. Apa, a impersonare invece la sfortunata Melissa e Britt Robertson, che ha già recitato nel melodrammatico La risposta nelle stelle, dal libro di Nicholas Sparks. Il padre di Jeremy è un volto noto, Gary Sinise. Tutta la pellicola si potrebbe raccontare come un film cristiano sentimentale, dove la fede vince nonostante tutto. Non è però originale in questo. I momenti felici sono come quelli di tutti i film drammatico-sentimentali, estremamente finti. Tutto è profondamente tragedia. Lo è troppo e non convince e nemmeno coinvolge davvero. Ed è arrivato il momento della nostra rubrica di resistenza cinefila. Cosa fanno registi, attori, gente di cinema in questa quarantena? Oggi ce lo facciamo raccontare da Raul Bova, che abbiamo raggiunto via WhatsApp audio nella sua casa di Roma. Ciao Raul, ben ritrovato alla Rosa Purpure. Raccontaci innanzitutto come stanno passando questi giorni strani, un po' senza tempo. Che rapporto hai con questa improvvisa abbondanza di tempo a disposizione? Un saluto a tutti. Riguardo al tempo, sì, diciamo che ci siamo trovati a disposizione una quantità di tempo incredibile, molto ampia, e sicuramente ci sono cambiate le abitudini. Però, insomma, da una parte abbiamo riscoperto sicuramente una parte di noi diversa, una parte che comunque forse anche i vecchi progetti che avevamo messo nel cassetto, che non abbiamo avuto il tempo nel modo e nell'attenzione di riguardare. Abbiamo avuto il tempo, anzi ho avuto il tempo di ripensare a tante cose passate e quindi di apprezzarne il risultato, apprezzare anche quello che è stato fino al pre-Covid e ovviamente gli sbagli, gli errori e tutto quello che ne consegue. Sicuramente quello di stare più a contatto con la famiglia è uno dei tempi più ben, diciamo, sfruttati in questo momento, perché comunque mi sto vivendo la mia compagna e le mie figlie come non ho mai vissuto prima d'ora, ed è una cosa meravigliosa. Che spazio occupa il cinema in queste tue giornate, da attore e da spettatore? Ma il cinema in queste giornate ovviamente è stato vissuto da parte mia un po' sotto tanti punti di vista, sia della scrittura che della regia che da spettatore. Non è mancato anche il tempo di vedere qualche serie televisiva, ho colto l'occasione per rivedere, insomma, le stagioni della Casa di Carta e anche qualche vecchio film, come per esempio Una giornata particolare di Ettore Scola con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, che comunque era veramente un capolavoro. E riscopro ovviamente che nei classici, ovviamente il nostro film italiano, veramente possiamo prendere spunto oggi per poterci ispirare ad una cinematografia che ci ha raccontato tantissimo, e oggi più che mai quella del dopoguerra è veramente molto vicina a noi. Probabilmente si ripartirà da là anche con la riscrittura del nostro cinema futuro, perché noi siamo in un dopoguerra, ovviamente. Io particolarmente poi sto lavorando su un progetto su Croce Rossa, perché mi piacerebbe portare avanti sia a livello produttivo che a livello attoriale una serie su Croce Rossa, sui volontari di Croce Rossa, perché è un marchio che esiste in tutto il mondo, che unisce tutti i paesi del mondo hanno una Croce Rossa. E poi c'è un progetto che si chiama Ultima Gara, che è sullo sport, sul superamento dei propri limiti, di quello che comunque è la vita dopo il muro, dopo la frontiera, dopo essere diventato un campione, dopo aver raggiunto un certo limite di anni. I protagonisti sono con me anche Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Manuel Bortuzzo. Raccontaci qualcosa di più di questa serie alla quale stai lavorando, dedicata proprio a quelle persone come medici, infermieri e volontari che hanno fatto e stanno facendo la differenza in questa crisi del Covid-19. Sarà una serie documentaria e tu che ruolo avrai? La struttura della sceneggiatura sicuramente saranno una struttura di 50 minuti, immaginiamo 12 episodi da 50 minuti, e sarà una vera e propria scrittura. È ovvio che la mia esperienza sul campo fa da raccoglitore di esperienze che poi verranno trascritte sulle sceneggiature. Noi abbiamo già un impianto strutturale molto importante, che parte appunto dal concetto di Croce Rossa, con sede centrale a Ginevra, che ovviamente si basa sulla difesa dei diritti e della dignità dell'uomo. Quindi andiamo ad affrontare casi che Croce Rossa si trova davanti tutti i giorni, la divisione dei reparti di Croce Rossa, che comprende appunto i senza tetto, gli anziani, i tossicodipendenti, le donne vittime di violenza, le ragazze madri, la donazione del sangue e via dicendo. Sono tutte attività che comunque Croce Rossa svolge. Quindi ci saranno i nostri protagonisti, che sceglieremo ovviamente ognuno nel proprio reparto, si racconteranno i reparti di Croce Rossa e ovviamente le storie che andranno ad affrontare giornalmente e quotidianamente sul campo. Ti devo dire che il tutto è nato proprio da una necessità umana, da una voglia di aiutare, e quindi il cinema e la televisione in questo caso sono stati un pretesto per poter aiutare in qualche modo. Ovviamente io faccio l'attore, il mio lavoro è quello di stare, di raccontare senza false ipocrisie, ovviamente raccontare la storia di Croce Rossa anche sul campo è un modo per aiutare i nostri volontari e questa organizzazione che comunque appunto tra i vari principi di Croce Rossa c'è proprio quello di alleviare il dolore delle persone e rispettare la dignità della vita umana. Grazie Raul, ti aspettiamo qui alla Rosa Purpurea quando avrai qualche novità da raccontarci. Ciao, grazie a voi, un grande abbraccio e forza, Un salto indietro di 7 giorni avevamo giocato con questo film. I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No, i fascisti sono stati padroni a seminarli. Li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. E si trattava di 900 di Bernardo Bertolucci nella nuovissima versione restaurata messa appunto da Cecchi Gori Home Entertainment. Hanno vinto Claudio Mor di Rovato, provincia di Brescia, e Antonio Felloni di Argenta, provincia di Ferrara. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno questo Blu-ray davvero straordinario per contenuti speciali e qualità anche della parte video dello straordinario film di Bertolucci, che ci facciamo raccontare in questa edizione proprio da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, edizione speciale per il più magniloquente calligrafico dei film di Bertolucci, che forse andrebbe riletto più con Freud che con Marx, perché non c'è granché del Novecento politico dentro questo straordinario Novecento, ma c'è semmai il modo con cui un borghese con la fascinazione per il popolo si è immaginato che la storia del Novecento debba essere stata. Una questione più che altro di fantasmi personali. Lungi dall'essere un limite, e questo in realtà è uno degli aspetti più interessanti di un grandissimo film che rischierebbe viceversa di essere sommerso e accecato dalla propria stessa ingenuità politica e storica, ma sicuramente non cinematografica. Edizione Deluxe, in cui tra gli extra spicca il documentario Bertolucci secondo il cinema di Gianni Meglio, assolutamente da avere. Giulio, come sempre, un salto fra i palinsesti della prossima settimana in chiaro e gratuitamente. Domenica, Rai 3, 21:20, Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Sì, domenica su Rai 3 in prima serata alle 21:20 una prima visione TV Blade Runner 2049, che non è un reboot perché non ci sono aggiornamenti e revisionismi a uso delle giovani generazioni, ma è un vero sequel e presuppone la conoscenza minuziosa del film di Ridley Scott. C'è aria di familiarità ma nessun effetto remake. Il film di Villeneuve parte da immagini del film dell'82 diventate proverbiali, le arricchisce e le perfeziona. Sullo sfondo rimangono ben saldi i vecchi dilemmi filosofici. Io e un altro? Esse est percipi? Chi mi ha creato? La drammaturgia questa volta si allarga a includere la cara vecchia tragedia greca con un Edipo senza mamma alla ricerca del babbo. E alla fine, tra neve e lacrime, prevale il melò. E la seconda segnalazione invece, Giulio, è una mega segnalazione, una vera e propria maratona dedicata a un grande maestro del cinema d'azione, del cinema di genere, come Walter Hill su Iris. Sì, come ben sai Franco, ogni settimana chiedo ai collaboratori di Film TV di spulciare il palinsesto per scegliere un film cult al giorno da approfondire. Questa settimana c'è stata una vera sorpresa perché in tre tra i collaboratori hanno scelto il film di un grande regista dimenticato oggi, che si chiama Walter Hill, cantore e critico del mito americano, capace di reinventare la lingua dei generi e il loro respiro. Si parte lunedì alle 12:40 su Iris con Ricercati ufficialmente morti, uno dei film più sottovalutati del regista, un B-movie sporco, svelto e politico come negli anni 80 faceva solo il miglior cinema. Martedì alle 10:05, sempre su Iris, I Trasgressori, film mutilato che comunque resta un grande film su pompieri bianchi in mezzo a una faida tra gang di neri. E poi venerdì alle 15:05, ancora una volta su Iris, quello che è forse il suo capolavoro, Driver l'imprendibile, straordinario noir astratto e stilizzato che è l'anello di congiunzione tra Jean-Pierre Melville e il Drive di Nicholas Winding Refn. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV. E siamo giunti così alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, l'epilogo è dedicato allo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato, a proposito di Denis Villeneuve, con Dune del 1984 di David Lynch, di cui proprio Villeneuve ha pronto praticamente il remake proprio questa settimana. Anche sulla nostra pagina Facebook della Rosa Purpurea abbiamo messo le prime foto di questo film, che è uno dei più attesi. Speriamo di vederlo sul grande schermo come merita, in sala, non appena tutta questa emergenza sarà finita. Noi comunque continueremo a informarvi come sempre ogni sabato alle 18, la domenica in replica alle 17, qui alla Rosa Purpurea, con tutto il cinema che c'è anche in streaming in questo periodo. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.